24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Le prospettive economiche nell'Eurozona sono soggette ad alta incertezza, lo ha detto il presidente della BCE Mario Draghi nel corso di un'audizione davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari nel Parlamento Europeo a Bruxelles. L'inflazione resterà sopra il 2% ancora per alcuni mesi, ha aggiunto, ma sulla forza e l'irreversibilità dell'euro nessun dubbio. Da Bruxelles, Beda Romano. È stata una sessione di 2 ore davanti alla Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo, in cui il nuovo presidente della Banca Centrale Europea ha posto l'accento su 3 aspetti. Prima di tutto ha fatto notare quanto impegnativi saranno i rifinanziamenti delle banche e dei paesi nel corso del 2012 e ha espresso una certa preoccupazione su questo fronte. Il secondo aspetto messo in luce da Mario Draghi è certamente la situazione economica. Il banchiere centrale ha sottolineato il fatto che vi è grande incertezza sulla crescita, sotto il costo del denaro proprio alcuni giorni fa. Il terzo aspetto riguarda l'assetto istituzionale della zona euro e l'accordo raggiunto all'inizio di dicembre dai governi dell'Unione. È un accordo su un nuovo assetto di discipline di bilancio che il banchiere centrale ha considerato positivamente, ma ha fatto capire che bisogna continuare su questa strada per cercare di rassicurare sia i mercati che le famiglie. Influenzate dalle parole di Draghi, le borse europee hanno chiuso negative. Francoforte ha ceduto lo 0,54%, Londra ha perso lo 0,42%, Parigi ha chiuso in parità con un più 0,06%. La prudenza del presidente della BCE, Mario Draghi, che ha giudicato incerte la situazione dei mercati finanziari e le prospettive dell'economia europea, hanno penalizzato i listini continentali. Partite tutte positive, le borse hanno poi annullato i guadagni sul finale, chiudendo in ordine sparso. Piazza Affari ha lasciato sul terreno lo 0,19% sul FTSE All Share e lo 0,16% sul FTSE MIB. Tra i titoli in pregiro è salita dell'1,51%, approfittando della prospettiva di un riassetto nell'azionariato. Secondo le ultime indiscrezioni, la famiglia Gavio ha alzato l'offerta ai Ligresti e ai Benetton per assumere il controllo della holding Eagly, mentre d'altra parte il gruppo Salini sarebbe interessato a un'integrazione con la stessa Impregilo. Debole invece Mediaset, meno 3,2%, mentre si fa più concreta l'ipotesi di un'asta competitiva per l'assegnazione delle frequenze televisive. Paolo Paronetto da Radio Corpo e Radio 24, Lo Sole 24 Ore. Intanto, secondo fonti di stampa inglesi, la Gran Bretagna ha rifiutato di dare il suo contributo al Fondo Monetario Internazionale. Londra, insomma, non verserà i 30 miliardi previsti. Nel vertice europeo dell'8 e 9 dicembre, lo ricordiamo, era stato deciso di garantire al Fondo Monetario Internazionale risorse aggiuntive pari a 200 miliardi di euro proprio per consolidare la moneta unica. E nel marco di questo Real Decreto Ley, además de garantizar las medidas necesarias para asegurar el buen gobierno. Al via nel Parlamento spagnolo il dibattito di investitura del nuovo presidente del governo, Mariano Rajoy. Il leader del conservatore Partito Popular, dopo essersi aggiudicato le elezioni del 20 novembre scorso, ha presentato le linee programmatiche del suo esecutivo con le nuove misure di austerità. Se le nostre previsioni sono giuste, ha detto, il prossimo anno dovremo ridurre di 16 miliardi e mezzo di euro la differenza tra entrate e uscite nella pubblica amministrazione. È questo l'obiettivo. Rajoy ha dichiarato di non ritenere utile al momento di aumentare le imposte e ha ribadito che rispetterà tutti gli impegni di risanamento e riforma presi da Zapatero con l'Unione Europea, fra i quali il passaggio a 67 anni dell'età della pensione deciso all'inizio del 2011. La casa automobilistica svedese Saab ha presentato richiesta di fallimento. In un comunicato l'azienda spiega di aver deciso di presentare domanda di bancarotta dopo che il precedente proprietario, General Motors, sabato, aveva rifiutato ogni proposta di salvataggio del brand. Alla Germania mancherebbero 1.300.000 lavoratori specializzati. È il risultato di uno studio condotto dalle Camere di Commercio e dell'Industria tedesche, reso noto ieri a Berlino. Secondo l'indagine, il 37% delle imprese non riesce ad occupare i posti vacanti per 2 mesi o più. Sono i settori a più alta concentrazione di tecnologia a registrare i problemi maggiori. La difficoltà a trovare occupati riguarda il 54% delle aziende che costruiscono strumenti per l'ingegneria meccanica. A seguire nella classifica la produzione di automezzi, il settore settore elettrotecnico e infine la sanità. Nel complesso, un'azienda su tre vede nella difficoltà a reperire personale adeguatamente formato uno dei rischi più grandi per il futuro della propria attività. Restiamo in Germania perché il presidente tedesco Wolf è nei guai per i viaggi pagati da imprenditori. Rischiano di danneggiare il governo di Angela Merkel le disavventure finanziarie del presidente tedesco Christian Wolf. Un tempo considerato il delfino della signora Merkel, poi scelto dal cancelliere per la carica di capo dello Stato, a carico di Wolf sono emerse negli ultimi giorni molti comportamenti quantomeno imbarazzanti se non illegali. Il presidente ha accettato negli anni scorsi, quando era capo della regione della Bassa Sassonia, un prestito da 500.000 euro da un imprenditore amico per comprarsi una casa e non lo ha dichiarato come avrebbe dovuto, anzi tutto è stato fatto attraverso le rispettive mogli perché non se ne sapesse nulla. È emerso anche nelle ultime ore che Wolf ha trascorso diverse vacanze all'estero a spese di altri imprenditori, sempre senza dichiararle. Ora da diverse parti, comprese la maggioranza che sostiene il governo, ci sono appelli perché il presidente si dimetta. Ci potrebbero essere ripercussioni sulla stessa signora Merkel che, dopo aver imposto Wolf lo scorso anno, fino ai giorni scorsi lo ha sempre difeso, a meno che il cancelliere, in un atto di realpolitik, non decida di scaricarlo, tenendo conto che la tolleranza dell'opinione pubblica tedesca per i peccati della casta è molto più bassa di quella degli italiani. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sfiorano i 3 milioni gli italiani che da pendolari ogni giorno usufruiscono delle rotaie per viaggiare da casa al lavoro e viceversa. Una vera e propria sfida quotidiana se si considera che l'Italia è l'ultimo in Europa per il tracciato delle metropolitane e per la velocità media dei treni. Lo registra Legambiente nel rapporto pendolari 2011. Per la rete di metropolitane siamo all'ultimo posto in valore assoluto con soli 176 chilometri. Stesso discorso per le ferrovie suburbane, che contano in totale 595 chilometri di estensione contro i 2000 in Germania e gli oltre 1000 in Gran Bretagna. I nostri treni pendolari poi sono quelli che viaggiano più lentamente in Europa, 35 chilometri orari contro i 51 in Spagna, i 48 in Germania, i 46 in Francia e i 40 nel Regno Unito. Andiamo in Gran Bretagna. In tempi di crisi economica il governo di David Cameron è impegnato a tagliare al massimo la spesa pubblica e la soluzione per mantenere almeno in parte lo storico Parlamento di Westminster solleva polemiche ma anche grande interesse. E se per tagliare i costi della politica si affittasse il Parlamento per feste, tè danzanti e sfilate di moda? L'idea da esportazione è venuta in mente agli inglesi, che con proverbiale capacità di monetizzare senza lasciarsi trascinare dai sentimenti hanno dato il compito a una speciale commissione marketing di preparare un progetto. Il risultato è un piano di 30 pagine per sfruttare al meglio il potenziale commerciale del Parlamento, il secolare palazzo di Westminster, sede della Camera dei Comuni e di quella dei Lord, pregevole vista sul Tamigi. La decisione sarà presa in primavera per risparmiare sugli alti costi che lo Stato britannico, e cioè i contribuenti inglesi, affrontano per mantenerlo. 224 milioni di sterline all'anno, più di 250 milioni di euro. Lo storico edificio produrrà in proprio 53 milioni di sterline entro 5 anni, grazie a un esclusivo club privato che, verso un pagamento di 2.000 sterline all'anno, garantirà l'accesso alla terrazza e alle altre sale, che alle aziende invece costeranno 20.000 sterline l'anno per gli eventi. In più ci sarà un menù di offerte alla carte, dal tour del Parlamento al tè del pomeriggio all'aperitivo a 36 sterline, tour del Big Ben e pranzo al ristorante della Camera dei Comuni a 75 sterline, 200 sterline per fuochi d'artificio a Capodanno o parata navale del Giubileo della Regina a primavera, fino a 250 sterline per party con tartine. Ed ecco servito il progetto Cash for Cocktail. Manca solo il cartello Affittasi Westminster. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Se l'idea dell'affitto del Parlamento di Westminster è ancora tale, si è invece trasformato in un vero business in Gran Bretagna il noleggio di renne per Natale. Perfino il primo ministro britannico ne ha prenotate alcune per una festa natalizia, suggellando così il successo per una coppia di allevatori che ha avuto l'idea. Le renne vengono dalla Svezia e non hanno avuto problemi ad ambientarsi nella campagna inglese. Possono essere noleggiate da chiunque, famiglie o commercianti. Il prezzo minimo per una coppia di renne è di 600 euro. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Filippo Reggi in regia, a voi per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.